famiglia per bambini da 0 a 3 anni. In questi giorni stiamo cercando famiglie disponibili a prendere in affido temporaneo bambini così piccoli, perché ogni bambino ha diritto a crescere in una famiglia. Pensaci. 1-2-3 Casa è un progetto Cooperativa Comin, Comune di Milano. Per info 349-74-93169, copcomin.org. Non perdetevi in un bicchiere d'acqua, l'acqua è preziosa, come il vostro tempo. Ami Acque, affidataria del servizio idrico integrato della provincia di Milano, ha aperto uno sportello online cui rivolgersi per un nuovo contratto di fornitura, per le operazioni di subentro, per le modifiche contrattuali. Basta andare su amiacque.it e registrarsi. Riceverete una mail di conferma con username e password per accedere immediatamente allo sportello online. Facile, come bere un bicchiere d'acqua. www.amiacque.it. Hai un'idea di impresa ma non hai gli elementi per trasformarla in realtà? Vuoi saperne di più su come fare a metterti in proprio? Fai la tua mossa, vieni a Mi Faccio Impresa, il primo salone italiano per i nuovi imprenditori. A Milano, il 30 e il 31 ottobre, in Università Bocconi, via Röntgen 1, dalle 10 alle 19, ingresso libero. www.mifaccioimpresa.it. Anche a Loncavallo gli spettacoli della Festa del Teatro, sabato 24 ottobre alle 18, a Vacuum l'Eterna Ricerca, regia e drammaturgia di Mario Ruggeri, e alle 21.30 Gaia Mater, spettacolo di teatro danza per voci liriche e antiche rotondità della Compagnia Teatrale Corona. Dalle 20 sapori sardi proposti nel menù della cucina, solo se prenoti a laberraz@gmail.com, e dalle 23 al baretto DJ Calabro, sabato 24 ottobre dalle 18, leoncavallo.org. Popolare Network, il microfono aperto. Questa sera discutiamo con voi della bufera che si è scatenata su Piero Marrazzo, il presidente della Regione Lazio, quota Partito Democratico, che è stato, lo sapete, accusato. Possiamo usare questo termine, in realtà non c'è un'accusa naturalmente, casomai Marrazzo si dichiara vittima di una manovra. Comunque è al centro di un vero o presunto scandalo sessuale, sarebbe stato filmato in un appartamento in compagnia di una persona che non si sa chi sia, non si sa di quale sesso sia, non si sa cosa stessero facendo, e con questo filmato quattro carabinieri che sono stati arrestati avrebbero tentato di ricattarlo chiedendogli addirittura 80.000. Buonasera cari amici, la Tela Sonora 101.9 FM, come al solito in ritardo, con me qui in cabina, Gabriele, Mario, and Alicia, and Paola Grauso in regia. Ciao Paola! Ciao! Dai che c'hai delle bellissime notizie oggi, raccontaci! No! Dai, lo dico io? No, si confonde, vabbè, poi ve lo dico piano piano, faremo un indovinello. Comunque tutto bene, stiamo tutti bene, godiamo di ottima salute dopo 3 giorni a casa in malattia e dovevo essere in vacanza, ma non importa. Questa sera, quarta puntata, Carovana dei Poeti, Fabio Franzin, Carmine De Falco, Luca Paci e... mettiamo il quarto, anche se non c'è, Marco Bini. Ci terrei a salutare Marco perché in questo momento sta preparando, pensate un po', il CT con i testi di protesto, e quindi le sue poesie registrate, preregistrate, per poter poi partecipare prossimamente alla Carovana dei Poeti. Caro Marco, ti abbiamo comunque elencato fra i partecipanti e ringraziamo Fabio, Carmine e Luca per aver dato l'accordo finale, quindi partecipare a questa quarta tappa. La musica come al solito, note volanti, ma abbiamo iniziato il programma con la musica di Double Sense, ovviamente. Vedi, dillo di nuovo. Double Sense. Ecco. Che ormai fanno parte un po' della nostra tradizione. Note volanti, invece, come sapete, è lo sponsor di protesto. E un caro saluto a Alessandro Ramberti, che rimane sempre fra le quinte. Grazie Alessandro per averci proposto questo testo bellissimo, che più la carovana avanza più scopriamo nei dettagli, nei particolari, con questa svariata gamma di poeti che partecipano a questa carovana, e sono uno più bravo e più interessante dell'altro. Allora io direi mettiamo un po', Mario, ma tu questa sera c'è un messaggio particolare da dare alla Tela Sonora? Buonasera, ma non so, niente molto di particolare, magari dire che sabato abbiamo avuto la presentazione del film, è andata abbastanza bene, soprattutto... Vuoi ricordare che film per i nostri amici radioascoltatori? Ecco, abbiamo presentato Ustissu Sangu, che parla delle storie dei migranti che arrivano in Sicilia, e niente, abbiamo visto questo film anche con momenti emotivi, perché è molto molto bello. Abbiamo fatto poi un dibattito, abbiamo parlato delle migrazioni di oggi, delle migrazioni di ieri, abbastanza partecipato sicuramente, e niente, con tutte le persone che sono venute le ringraziamo sicuramente di nuovo, rimaniamo in contatto. E soprattutto daremo in dono il CD, esatto. Il DVD copiato, come è stato richiesto da Sebastiano Adernò e Francesco Di Martino. Dato che è un'opera in Creative Commons, quindi senza copyright, con l'idea di diffonderlo il più possibile. E sharing knowledge, quindi loro avevano questo come scopo, no? Quello di far conoscere l'opera qui a Bruxelles, quindi dal centro dell'Europa, di ramarlo un po' in tutte le direzioni. Chiaramente alla nostra serata hanno partecipato amici anche non soltanto italiani, e quindi il bello, proprio perché da Bruxelles partiranno queste copie che andranno magari a finire chissà in Germania, in Inghilterra, in Scozia, in Francia, in Spagna. Esattamente, Alizia, quello che si dice copie. Diffondere dal basso. Benissimo. E ci impegniamo un po' from the bottom to the top. Yes. Ma questa radio, questa Tela Sonora, Double Sense from the bottom, in inglese ormai, ma... Beh, siamo internazionali. Dai, me lo fai un sorrisino? Sta videocamera me la sono dimenticata, mannaggia a me. Ero troppo presa dalla carovana dei poeti, non capivo più niente. Allora, abbiamo questa sera note volanti, Burrida? Sì. Ripercussioni sociali del laboratorio sociale occupato autogestito Burrida. Di Lorenzo, se non erro, che avevamo già presentato una volta, lo rimandiamo ancora oggi, e diamo avvio alla carovana contattando il primo ospite Fabio. Quindi restate con noi, ascoltate la musica, tra qualche minuto siamo di nuovo in onda. A presto. Ándale, este es un tributo per Boni, para Coajinicuilapa, para la familia de Guerrero. Para bailar la chilena hay que saberla tocar y darle con lo bordoneo pa' que lo ajo acompañar. Pa' que se alegre la fiesta y salgan todos a bailar. Pa' que se alegre la fiesta y salgan todos a bailar. Mi querido Metepec, donde tengo una ilusión. Tú que tienes flores lindas, ahí te dejo mi canción. Mi querido Metepec, donde tengo una ilusión. tú que tienes flores lindas, ahí te dejo mi canción. Mi querido Metepe, donde tengo una ilusión, tú que tienes flores lindas, ahí te dejo mi canción. Mi querido Metepe, donde tengo una ilusión, tú que tienes flores lindas, ahí te dejo mi canción. Esta chilena que canto fue compuesta con amor de Monseñor Moisés Vargas, nuestro gran compositor. Recémosle un Padre Nuestro, allá nos vemos, trovador. Recémosle un Padre Nuestro, allá nos vemos, trovador. Mi querido Metepe, siempre te ha de recordar por tus lindas chilenas que nos supiste cantar. Mi querido Metepe, siempre te ha de recordar por tus lindas chilenas que nos supiste cantar. Mi querido Metepe, siempre te ha de recordar por tus lindas chilenas que nos supiste cantar. Mi querido Metepe, siempre te ha de recordar por tus lindas chilenas que nos supiste cantar. En una hermosa mañana, con un sol resplandeciente, andaba mi señor cantando chilena pa' mi gente. Pa' que nunca estén tristes en mis costas guerrerenses. Pa' que nunca estén tristes en mis costas guerrerenses. Mi querido Metepe, donde tengo una ilusión, tú que tienes flores lindas, hoy te dejo mi canción. Mi querido Metepe, donde tengo una ilusión, tú que tienes flores lindas, hoy te dejo mi canzone. Eccoci di nuovo con voi, cari amici radioascoltatori. Abbiamo il primo ospite, Carmine De Falco, perché il Fabio non l'abbiamo trovato. Ciao Carmine, come stai? Ciao, buonasera, tutto bene. Oh, che bella voce. Ma da dove ci chiami? Da 081, cos'è, Napoli? Napoli, sì, Napoli. Ah, allora la nostra Paola G della regia sarà contentissima, perché anche lei è... una napoletana. Pronto? Dalla regia ci sente? No, è la Paola che non risponde, che è timida, non lo so. Vabbè, senti, allora, raccontaci un po' la tua esperienza nella carovana. Ormai siamo alla quarta tappa, quindi i nostri amici radioascoltatori conoscono a menadito un po' l'introduzione, Luca Ariano, Luca Taci, insomma, abbiamo parlato di tutti i poeti che finora hanno partecipato a questa carovana. Quindi leggici una poesia e racconti soprattutto la tua esperienza, che cosa ha contato per te partecipare e via. Sì, potevo dire anche un po' perché... protesto, sì, certo, le cose che hanno detto. Certo, ma certo, nel senso che mi sento particolarmente preso dal progetto, perché già un anno fa, giusto un annetto fa, parlavamo sul blog di Anarchica con Luca Siriano, che Paci, e l'idea era proprio quella di promuovere qualcosa che in qualche modo potesse scuotere per quanto possibile la situazione, che in quel momento era forte, perché era appena nato il movimento dell'Onda, che erano questi studenti che protestavano, e la mia idea che avevo proposto allora era di fare qualcosa per farci sentire anche da loro. Quindi i miei testi erano rivolti soprattutto alla generazione un po' più giovane della mia, e niente, quindi è un trittico di tre poesie abbastanza lunghe, quindi magari ne leggo solo qualche pezzo dei vari parti. Quella variazioni? Sì, dimmi. Dico variazioni, volevi leggere? Sì, sono tre poesie lunghe. Ok, tutte e tre non le puoi leggere, devi scegliere una. Ho qualche pezzo. Ok, va bene. Come preferisci te? La prima in particolare era una sorta di atto di accusa contro la mia generazione, quindi anche contro me stesso. Uh-huh. E inizia così. Noi nutriti con frutti beccati parte a parte dolcemente per ventri distratti, abbiamo appreso che da adulto rivolti la frittata di peso, guardandoli seduti rivoluzionari coinvolti nelle lotte, grattarsi il peso ignari nei posti di potere da finestre TV, senza saper dire se si invidiava un tempo che non avevamo avuto o l'ora lor che spendevamo nostra. Senza sangue e battaglie, per piccoli pensieri inconsistenti, conquistare notti più lunghe nelle discoteche, il diritto di fumare in casa e di scoparci con comodità, gli artigli affilati per rivendicare la libagione vegetariana, perché succulenta la carne ci fa schifo, rimando a un rito cancellato. La colpa non è pensare di non aver colpe, ma di non aver voluto gravarsi dell'altrui. Questa è, diciamo, la prima. Ok. Parte della prima, in realtà, molto più lunga. Mm-hmm. La seconda, invece, si rifà a Ginsberg, al suo grido, che rappresenta un po' una sorta di urlo generazionale della seconda parte del Novecento, mm-hmm. che inizia con I saw the best minds of my generation. Okay. E una sorta di risposta odierna. E le migliori menti della mia generazione le ho viste comprare la PlayStation, aspettare con palpitazione bestseller l'uscita di Massa Movie, con i soldi fuori qualche locale, e di supereroi sniffare cocaina a pochi spicci, attardarsi in una vetrina ad Amsterdam spacciandosi un po' di libertà. E così per altri più di 100 versi. Sì, ho visto. E poi infine l'ultima, che è un po' più diretta ai giovani, ai più giovani di me, anche mm-hmm. ovviamente a quelli della mia generazione, per dire quanto la situazione attuale sia negativa e che l'unica soluzione, insomma, è quella di farsi sentire. Okay. Non c'è posto per voi negli ospedali migliori, non c'è posto nelle scuole private per i giovani, che non c'è posto nei cimiteri super accessoriati, non c'è nelle villette coi viali per i senza soldi alle università dei premi Nobel, nei locali di grido delle capitali. E poi finendo. No, vai, vai, sì, ma, che è molto bella. No, nel senso, leggo quest'ultima parte. Ma praticate questa rivolta molle a un sistema che si nutre di ignoranza. Consumatori, condividete le scoperte, conquistate luoghi nuovi, diffondetevi come virus epidemia di chi non ha fedi irreversibili, di chi sa che c'è una soluzione ed è quella di governare il remo a goccia, di mutare senza accettare il vada come vada e non camminare soli tra 6 miliardi la possibilità e riconoscersi. Almeno tra vicini, spingersi con forza sopra le mura. Questo è, diciamo, la fine, il finale del trittico. Del trittico, variazioni. Senti Carmine, tu vivi in provincia di Napoli, no? Hai raccolto, sì. Hai pubblicato altre raccolte di poesie. Linkami l'immagine, Loop Vernissage. Ma come sei... Sì. E poi va bene, la Borsa del Viandante di Chiara De Luca, che è il prossimo... uno dei prossimi progetti che abbiamo qua alla Tela Sonora. Come sei entrato in contatto con Alessandro e con Anarchica? Cioè... Ma in realtà in maniera così, ho partecipato a un concorso di Fara di Alessandro, dove c'era in giuria Chiara De Luca, a cui piacque molto la prima raccolta, che era appunto l'incambio di immagine, e da lì è nata, insomma, questa sorta di collaborazione continua, tanto che Chiara in qualche modo la ritengo una sorta di madrina. Molto, bene, molto in gamba, Chiara. Abbiamo, l'abbiamo intervistata durante la seconda tappa. Due puntate fa. Hai ascoltato le puntate? L'ultima raccolta pure l'ho pubblicata con lei, proprio, che si chiama Italian Day. Senti, quindi per te protestare significa quindi dire le cose che non vanno, e come hai scritto, come hai... Sì, l'idea era, cioè, più che altro nasceva proprio un'esigenza quasi fisica, nel senso che l'Italia di oggi non ci piace, né a me né ai curatori Luca e Luca, e quindi... quindi sentivamo l'urgenza di farlo sentire, di dirlo. Poi ovviamente ognuno segue il suo percorso, la sua strada, anche, non so, Luca Paci e Luca Ariano hanno due stili completamente diversi. Però volevamo fare qualcosa di che fosse concreto, visibile, che si potesse portare alle altre persone, anche per, insomma, questa sorta di ribellione al sistema editoriale italiano, che non dà nessuno spazio a poeti, a giovani. Questo, insomma, è l'intento anche di Anarchica, di farsi sentire. Sì, Carmine, ciao, buonasera, sono Mario, ci siamo sentiti via email. No, ti volevo chiedere una cosa. Quando tu dicevi all'inizio che questo trittico è un po' anche un'autoaccusa, no? A te stesso, comunque alla tua generazione, che forse è la nostra generazione, no? Io anch'io sono sui 40, non so se tu sei più giovane o meno. Però ecco, dedicato ai ragazzi di oggi. Però tu pensi effettivamente che la nostra generazione, quelli che adesso abbiamo i 40 anni, che siamo stati magari più attivi negli anni 80, effettivamente ha fallito, o oltre a criticarci possiamo offrire qualcosa, qualche esempio, qualche riferimento ai giovani di oggi? Bellissima domanda, nel senso che da un lato penso che abbia fallito forse la prima generazione che non si è ribellata, magari non per colpa nostra, però ha vissuto degli agi che ha ereditato dal passato. Noi abbiamo beccato in pieno l'edonismo reganiano, no? Degli anni 80, esatto, ti ricorderai. Gli anni, i famosi anni 80. Sì, mentre la generazione subito successiva vive oggi un periodo di profonda crisi che... Quindi, bene, abbiamo capito, ci dispiace per questa interruzione. Abbiamo capito comunque che il nostro amico Carmine è un ragazzo giovane ma con le idee ben chiare, quindi questo sta a indicare che non solo non esistono poeti validi, ma esistono tantissime persone disponibili in Italia a raccontare i mali, ma non vediamola sempre dal lato negativo. Io direi invece pronti, persone attive con tanto da dare, che hanno ancora valori nascosti e soprattutto hanno voglia di indignarsi, quindi questo implica di per sé avere un cuore, avere ancora un'anima, avere una coscienza. Quindi questo, io per questo che protesto, io lo vedo sempre in qualcosa di favorevole, di positivo. Pro testo, cioè pro nel senso di a favore, testo il suono della parola, la parola collegata una dopo l'altra che formano un testo, e quindi il modo per esprimere ciò che si ha di più profondo. Suggerirei di andare avanti con la musica, perché così cerchiamo di contattare Fabio, il quale aveva, se non erro, dei problemi logistici, no? Perché è un bambino giovane, bisogna chiamarlo sul Corlex. E andiamo avanti in questa puntata, abbiamo forse un po' di musica, ce la facciamo? Sì, sì. Ok. Abbiamo i Double Sense. Abbiamo i Double Sense. Con Brothers Unite. Ah. Ok, restate con noi e ci sentiamo a breve. Your plan, recuse from me. senza fate là. Che stop della staccia, non steppa, che mosta. Che stop della staccia, protetta, scondisa. La risata eclatante del vostro amico Claudio. I cattivi gusti musicali di vostra cugina vi mancano? Con Pay & Go International rimanete in contatto con i vostri cari. Chiamate e inviate sms verso reti fisse e mobili in Italia a tariffa nazionale. Informazioni o condizioni su proximus.be/international o in uno dei nostri punti vendita. Proximus, così tanto, così vicino, insieme con Belgacom. Buonasera cari amici della Tela Sonora, di nuovo con noi abbiamo finalmente Fabio. Ciao Fabio! Ciao! Ciao, senti! Ciao a tutti! Ciao! Allora, giustamente abbiamo iniziato prima con Carmine, perché non riuscivamo a metterci in contatto con te. Come a Carmine chiediamo a te l'esperienza di questi canti dell'offesa e la partecipazione quindi all'antologia Protesto e se ci vorrai poi leggere magari una poesia. Ma sì, io sono felice di essere in questa antologia perché mancava un po' la poesia civile da un po' di anni in Italia, secondo me, ed è giusto che stiamo vivendo poi un periodo molto, molto particolare, un'epoca molto particolare, c'è bisogno di qualche voce che racconti la realtà in maniera un po' più profonda di quella che ci viene spacciata dai mass media. Sostanzialmente. Ok, quindi i canti dell'offesa, cos'è? Un canto per esprimere l'offesa, l'indignazione? Beh, io ritengo che questo sia il tempo dell'offesa, offesa proprio anche dal punto di vista umano ed economico. La povertà aumenta sempre di più nel mondo, ci sono sempre una cupola di persone che hanno in mano l'economia e il resto è offesa contro la dignità umana. Ok, vuoi leggerci una poesia per esprimere questo tuo senso dell'offesa? Sì, volevo leggere magari proprio questa che parla, non ha titolo. Cosa mai ne capivamo noi di borsa, economia, materia pensavamo fosse solo per altri, magnati o premi Nobel, cifre e diagrammi che non sapevamo interpretare, che sembravano le Alpi sulla carta. Quotazioni come altitudine di passo, di pianoro, che al massimo per noi era fare la cresta sulla spesa, qualche euro che restava nelle tasche, il segno più. Ma col mutuo abbiamo provato quelle vette capovolte negli abissi, le punte, farsi aculei nella carne. Così fa la faina, quando penetra furtiva nei pollai, e uccide, fa razzia, per cibarsi poi soltanto delle creste. Hai voglia di leggerci anche una parte di Canti dell'offesa, proprio la poesia che è stata scelta per partecipare all'antologia? È molto lunga, quindi sì, magari se vuoi leggere una parte. Poesia, la prima poesia nasce da un fatto proprio che che è successo nell'area di servizio a Mestre, da un camion tedesco che trasportava anguri, e furono estratti i corpi congelati di 3 clandestini iracheni. E i giornali raccontarono le risa divertite dei turisti di passaggio, le foto ricordo fatte coi telefonini. E dice: povere statue, mai state scolpite, mai state toccate da arte o scalpello, scaricate dalla stiva sull'asfalto bollente dell'estate, stese e per le storte pose degli arti derise, statue del gelo nell'algore che ci avvolge, impresse nel display di qualche telefonino quale esotica immagine di viaggio da mostrare ai mostri amici. Le angurie fresche a fette nei tavoli, il ghiaccio nei cocktail a cubetti, quel ghiaccio triturato dai sorrisi. Senti, tu hai un bambino? Ho un bambino, sì. Questo bambino quanti anni ha? 6 anni. Cosa insegna tuo figlio? Ma cosa insegno a mio figlio? Io ne ho 2, ne ho anche uno di 18 anni. Posso dire che quello che secondo me che può fare una persona è dare un esempio. Io non cerco di insegnare, cerco di dare un esempio, vivendo onestamente la mia vita, e conducendo senza essere mai volgare le mie cose. Io credo che questo sia già importante. Certo, quindi per te il genitore è l'esempio. Deve essere esemplare, così come dovrebbe essere esemplare chi ci governa, invece mi sembra che non lo è. Chi è predisposto anche a trasmettere dei messaggi dovrebbe stare molto attento a queste cose. Non tanto parlare, ma fare, cercare di fare bene con onestà e con umiltà, magari, che sono le cose, i valori più grandi, secondo me. Ok, invece il ragazzo di 18 anni, lui che scuole fa, che studi sta facendo, che studi sta ma portando? Lui va al liceo, il prossimo anno andrà all'università, ecco, lui per esempio è un aspetto positivo della mia vita, nel senso, io non gli ho mai detto per esempio leggi un libro, che è importante, però lui ha visto sempre me con un libro in mano. Certo. E adesso legge anche lui e suona la chitarra e si occupa marginalmente di volontariato, insomma queste sono cose che fanno piacere, aspetti che mi rendono fiero del lavoro che ho fatto, se mai ho fatto un lavoro. Certo che hai fatto un lavoro. Senti, quali sono i tuoi progetti futuri dopo Protesto? Beh, io adesso sono uscito con un libro che si chiama Fabbrica in dialetto, sul tema operaio, che tra l'altro sta andando bene, ha vinto il premio Pascoli, però adesso io sono rimasto anche senza lavoro, cioè la fabbrica ne avevamo parlato, parlo a chiuso. Infatti, ne avevamo parlato. E qui nel nord-est è un periodo molto molto difficile, la crisi è molto profonda e sarà più profonda ancora. Certo. Io adesso sto lavorando ad altre raccolte, ne uscirà una forse 2 il prossimo anno, però non di protesta, un altro versante del mio lavoro poetico. Ok. Senti Fabio, prima che la linea cada, noi ti ringraziamo qua dalla Tela Sonora, sappi che comunque sei nei nostri cuori, che è il tuo caso, così ci eravamo sentiti un po' di tempo fa. Lo so, non ti preoccupare, non devi ringraziare. Daniela, no. Ringrazio voi e tutti gli ascoltatori della vicinanza. Certo, ma vedrai che qualcosa succederà e qualcosa di bello. Tu tieni duro, continua a lavorare sulla poesia, la poesia salva l'anima, come diceva la nostra amica Silvia Monti, e noi ne siamo più che convinti. Lo so. Ti ringraziamo per questa partecipazione anche all'ultimo minuto. Grazie a voi, un caro abbraccio a tutti. Benissimo, grazie. Allora, cari amici, come avete sentito, tantissime sono le realtà di persone che continuano comunque a credere in valori, quindi non pensiamo che in Italia sia tutto morto, anzi, io credo che sotto le ceneri covi veramente un senso più forte della ribellione, ma un senso di rimonta. Quindi Protesto giunge proprio, secondo me, al momento giusto nel percorso della tela sonora, perché come dicevo e continuo a ripetermi perché ci tengo in particolar modo, protesto è una forma positiva di vedere la parola e di protestare, perché la parola serve, è utile, viene utilizzata per dare voce a quello che può essere magari la ribellione o comunque la voglia di gridare forte il proprio disdegno, ma soprattutto per testimoniare che c'è ancora speranza e nei cuori delle persone la speranza è forte, quindi la tela, la radio, questa antenna sonora che è la nostra radio è qui per testimoniare questa voglia. Noi ringraziamo in particolare Alessandro, perché io credo che Alessandro fino ad oggi in questi due anni abbia veramente sempre proposto la tela sonora e alla radio in generale testi e poeti e scrittori veramente di un spessore notevole così capacità anche di trasmettere a chi legge forti emozioni. La poesia è questo, un modo per, si diceva prima, per salvare l'anima ma anche per testimoniare. Quindi prima di passare al prossimo ospite, perché non abbiamo più tanto tempo, il prossimo ospite è un ospite importante che chiude, se vogliamo, un po' la carovana, nonostante ci siano ancora due o tre poeti che parteciperanno nelle prossime settimane, perché appunto non potevano essere presenti oggi alla chiusura. Luca Paci che insieme a Luca Ariano hanno curato questa antologia così ricca che meriterebbe veramente un anno secondo me di esplorazione, ma purtroppo la radio non abbiamo un anno da dedicare all'antologia, ma è già qualcosa la carovana. Questa è la quarta puntata, è la quarta tappa. Allora io direi non dilunghiamoci, se mandiamo ancora un brano magari di Burrita o forse mi vuole Burrita, sì. Ringraziamo sempre Fabio Volpi di Note Volanti perché è sponsor della tela sonora e della carovana dei poeti, e poi intervistiamo Luca Paci. Restate con noi, baci. Rompiendo nivel, Mr. Junior con Sony L, ya tú sabes, rompiendo los esquemas, rompiendo la cadena, rompiendo los problemas, bajando al campo de batalla, porque con Cristo derrumbo muralla. Que me casen, claro que si estoy con Cristo natural, que ellos fracasen, declarando que con esta canción están escuchando a Cristo, están adorando, delante de su excelencia se están postrando y llevando esta palabra profética que puede sanar a una diabética. Con Bernie tú, el que se comporta, el que los demonios no soporta, el que prosigue con Cristo, que el mundo se le venga en contra. Y te digo, yo sé quién soy, por eso con pana la gloria a la Cristo le doy. Me preocupo en caminar, porque con Cristo no voy a fracasar. Y Satanás vino a destruirme, pero Cristo está para cubrirme. En el nombre de Jesús me mantengo firme, con Mr. G el constructor, ya tú sabes, the brother, the Sam of the Tom, con CC metiéndole candela, a ver cómo guay. Otro que se atreva. Ajá, Mr. Junior. Ya yo llegué, ya mi ruin me invoqué. Mira yo cantando aquí por primera vez. Un, dos, tres, tú lo ves. Si no es en inglés, solamente vengo a lavarle a rea Jesucristo. A mi gran amigo, aquel que dijo que siempre él estará conmigo. Y aunque este ritmo le parezca muy ruidoso en los cielos, mi Cristo estará bien gozoso. Yo te lo digo y te canto, no seas ocioso. Ajá. Giro con mi mambo representando a R que tiene el comando de este mando. Por eso escúchame bien, yo no quiero billetes, ya sé. Y tú te preguntas quién es, soy yo, Sony L, el mismo que estando para Lucifer, junto a aquel que me da el poder. Jesucristo rompe nivel, perdete bien. You know, you ready? Ya tú sabes, Bernie tú, Mr. G. Tú sabes, the process of distraction, apodado por your family como los hijos del trueno, the son of the dark, ya tú sabes. Benito, Benito, uh-huh. Sì, eccoci qua. Gabri stava tentando di mettersi in contatto con Luca Paci. E anche lui siamo riusciti. Anche lui è un italiano all'estero, perché vive a Londra, sì, e magari è più difficile. Infatti, ma non ci siamo riusciti, ma non importa, lo conteremo magari insieme quando passeremo così l'ultima puntata della carovana con Marco Bini e Faran Meteoses. Ma allora direi che a questo punto sarebbe interessante allora leggere qualcosa magari di Luca dall'antologia. Mario, non so, vuoi pensarci tu una piccola introduzione magari in fondo alle poesie, c'è cioè l'introduzione di Luca, raccontare un attimino che cosa fa e poi leggiamo le sue poesie. Ecco, posso provare. Dunque, Luca Paci appunto è un italiano all'estero, nel senso che adesso vive a Londra e nella sua scrittura tra l'altro è polivalente, nel senso che scrive in italiano naturalmente, ma anche in inglese, anche qualcosa in francese ho visto. E niente, anche lui ha un curriculum abbastanza lungo di produzione poetica, letteraria, ed è uno dei grandi promotori, diciamo, di questa antologia di protesto, essendo tra i fondatori del collettivo Anarchica, che è quello che ha dato un po' il là a questa iniziativa. E quindi ecco, ci tenevamo specialmente a che intervenisse direttamente in radio, anche se purtroppo non ha avuto fortuna. Comunque ecco, posso leggere magari qualcosa della sua presenza nell'antologia. Si chiama Visioni dalla gabbia. In differenti stanze, le prime sono queste. Ritorna alla cappa e alla durindarda, al mantello smangiato dalle tarme della lana. Ritorna al catino da barbiere che usò per elmo, o coppa o usbergo nelle circostanze estreme. Tutto è utile nel pericolo estremo. Dalle prese di posizione, dall'assurda istigazione di un argomento, per vincerlo non importa se si perde l'anima nel processo. Qui probabilmente i nostri ascoltatori più avvertiti avranno riconosciuto Don Chisciotte, quindi anche una metafora molto importante del volere comunque lottare e non arrendersi mai. Leggiamo anche magari The Legend of the Dwarf's King in inglese, un pezzo? Magari in inglese te lo lascio a te. Ok, ne leggo soltanto un pezzettino e poi direi di concludere con La nave e il sogno, e questo magari ci pensi tu. Okay. The Legend of the Dwarf's King. Listen. The land was shrinking and the sky was dry. The grey dwarf king was passing by. Listen, there was a man in my country who owned everything, and everything he had was stolen from the people. Listen, this man in this country became a king, and his kingdom included all the crops of the fields, and the radios and lawyers, and TVs and books and papers and ships. Listen. This man, in reality, was not a king, but a bald dwarf with a fake toupet and a rubber mask. Listen, the dwarf talk of freedom in his nation of slaves, and democracy and honesty in his nation of thieves, and environment and pollution in his nation of smoke. Listen, the dwarf king was changing the rules of the game and bringing zombies to life to get more voters. He talked to the judge, who thought it was illegal, but he warned the diatribe and they went to jail. Listen, the land was shrinking and the sky was dry. The great dwarf king was passing by. Questa è stata scritta il 17 luglio 2006. Non oso commentare, ma il fatto che abbia menzionato democrazia e onestà e pollution, ci sono tantissime cose che evocano un pochino al ruolo dei nostri leader, dei nostri re. Il re dovrebbe essere il leader della terra, no? Il kingdom è il re della terra, colui che porta avanti le persone, che le conduce. Si può veramente dire forse di oggi di poche persone che veramente compiano e portino avanti questa missione, che è quella di condurre i popoli e di essere dei buoni coltivatori di terra, non nel senso di parlare di agricoltura, ma coltivatori di capacità, di talenti. Quindi il vero re è colui che riesce, che ha una visione, che ha un sogno. E a proposito di sogno, ci terrei a ringraziare il nostro amico Stefano Elio Danna, che ha partecipato un po' di tempo fa e che sempre è il nostro, un po' il nostro ispiratore, il nostro dreamer, e concludere magari la serata, prima di mandare ancora musica, con la bellissima poesia La nave il sogno, che se vuoi leggere tu, Mario, conclude, direi, magari ne leggi un pezzo perché è abbastanza lunga, conclude la serata, e ringraziamo quindi Luca Paci. Ricordiamo anche che Luca ha partecipato con alla radio con l'antologia Vicino alle nubi sulla montagna crollata, edita da Campanotto nel 2008, sempre insieme a Luca Riano. Ecco, ti lascio, vai, leggi. La nave è governata da dozzinali impiegati della società petrolifera. Il greggio ingrossa, impercettibile, infinito, monarca sovrano, Kaiser, Mikado Shah, Pascià dei sette mari. Se ne sta il capitano col cazzo in mano, e le ciurme inespiabili e veniali reggono i vessilli d'un potere già potuto, impersonale, imperterrito, o capitano, mio capitano. Alla guardiola guarnita sta il responsabile della vista dell'orizzonte, incastonato, circospetto, guardato a visto dall'oceano oleoso del mare color del mosto. Agosto sferza le vecchie barche con la congerie di colori suoni, le imago sensitivo auditive e le rime d'un romantico passato, tutto diciamo, tutto preposto e veggente, simile al Tiresia della versione d'Omero. Metodico, coerente, preciso, periodico stabilito e collocato, il paltò di mussolina, greve color, mascella del duce, apprende il suo destino all'attaccapanni. Ce ne sarebbe da commentare stasera, peccato che Luca non sia con noi. Molto bello il gioco di parole, sì, di assonanze, no? Alcune volte non ho sbagliato io a leggere, mm-hmm, proprio la parola che viene quasi ritorta, ritorta per voler dire più di quello che dice in sé. Molto bello, davvero. Molto, molto bravo anche, direi, molto in gamba. Sì. Bene, sottolinea quindi una volta di più che il protesto è a favore del testo, quindi protestare ma anche usare la parola, perché tanti sono gli strumenti che abbiamo, a volte non ci accorgiamo della ricchezza immane, della infinita ricchezza che abbiamo a disposizione, quindi sta a noi utilizzarla per meglio così andare oltre e evolvere. Io direi, prima di lanciare l'ultimo saluto in questa carovana, lasciarla andare, proseguire il suo viaggio, chissà dove porterà, di ascoltare ancora la musica di Double Sense. Dillo un po', Paola. Double Sense. Ah, ma che fortunato quest'uomo. Chi è poi il tuo amico, si può dire? Sì. Come si chiama? Dire. Si chiama Filippo D'Avanzo. Ma sposatelo, mio Filippo D'Avanzo. Ma che amico, sposatelo, uno così bravo che fa questa musica così, così bella. No, non è solo, sono in tre. Ah, sono in tre. Qui io sono tanto tanto legata ad Double Sense, soprattutto per Filippo, però ci sono altre due persone. Filippo, ti amiamo, ti vogliamo un bene infinito, non ti conosciamo. Mandaci una foto così la pubblichiamo nel blog e anche i nostri amici della Tela Sonora scopriranno chi sei. Bene, allora lasciamo spazio adesso al suono, non più alla parola, ma anche alla parola indirettamente, perché comunque musica cantata, ci sentiamo dopo. Guarda senza stella che stanotte sembra più forte. Di l'orma occhi aperti ingannano chi stu cuore. Sembra più scura. Cinta paura giù passata superata. Senza paure care, senza paure sape sulla una speranza chi stu trena sa portata. A chi sapeve soffrì senza paure capire occhio come un mare. Ma una stimmana come uno sa evocare. Ma io rimando tutte gli ove più forte. Stanotte sai non dorma. Te vega rinda la luce. Più forte sai ma bruce. We'll be right back. guarda senza stella che stanotte sembra più forte. Di l'orma occhi aperti ingannano chi stu cor sembra più scura. Tu parla un po'. Dica qualcosa, appunto. Ma siamo di nuovo in onda? Sì, sì. Ero rimasta veramente favorevolmente impressionata da questa musica che non hai mai messo. Ed è la prima volta, infatti, la prima volta che mandiamo proprio in onore della carovana dei poeti. Cari amici, che dirvi? Siamo un po' tristi perché sta carovana ormai ci eravamo abituati, avevamo il nostro testo, lo portavamo, protesto, lo portavamo ovunque, al bar, al ristorante, al mattino, quando ti prepari, leggevamo, oddio stasera ci sono i poeti della carovana. Quindi ci dispiace un po' abbandonarlo, non lo abbandoniamo del tutto perché, come vi avevo detto prima, ci sono ancora due poeti e Luca Paci che prima o poi riusciremo a contattare. Però la carovana ormai volge al termine. L'esperimento è riuscito, tant'è vero che vorremmo organizzare una tavola rotonda qua a Bruxelles nel 2010, proprio per invitare alcuni fra i, diciamo, gli scrittori, i poeti che hanno partecipato, chi potrà per mille modi. Altri hanno materiale, hanno inviato materiale, quindi ci sarà modo di ascoltarli comunque con i file MP3 e le poesie lette con la loro voce. Quindi vorremmo organizzare questa tavola rotonda. Come al solito noi abbiamo tantissime idee, e poi le idee vanno realizzate, vanno trovati anche i fondi per portare avanti tutto questo. Quindi chissà che nel 2010 non ci sia proprio una svolta e sia possibile effettivamente teletrasportare, bello, telesonora, teletrasportare i nostri amici poeti qua a Bruxelles, magari organizzare con Skype. Bella, sarebbe interessante una conversazione a 5 o 6 intorno a protesto. Da rifletterci, perché ci sono tanti, come dicevamo prima, gli strumenti sono molti a disposizione, a volte si è un po' figé, quindi sempre bloccati, no? Fermi sulle stesse soluzioni, invece le soluzioni sono molteplici. Bene. Mario, parla un po' te. Ecco, sì, anche perché appena rimessa Gabri deve un po' riposare. No, volevo dire questo, ecco, anche se si conclude per il momento questo ciclo della carovana dei poeti, volevo dire che noi qui all'estero, qui da Bruxelles, ma anche con altre persone in altre città d'Europa, facciamo un giornale mensile che si chiama Aurora. Ha un sito web dove si può leggere integralmente, si chiama aurorainrete.org. E per il numero che esce adesso, per il numero di novembre, abbiamo fatto un articolo proprio sulla carovana dei poeti, con un articolo proprio di Gabri che descrive la prima puntata. E per il prossimo numero vogliamo anche provare a chiedere ai poeti di riprodurre alcune delle loro poesie, per offrire direttamente ai lettori di questa rivista ciò che hanno scritto, il loro impegno, perché infatti quello che ci ha attratto l'attenzione è proprio il fatto che non solo fanno poesia nuova, poesia fresca, ma soprattutto poesia impegnata, che vive nel nostro tempo e non solo colloqui intimi, no? Quindi ecco, approfitto per invitare tutti a conoscere, a leggere questa rivista, si chiama, come ho detto, Aurora, si trova in internet all'indirizzo Aurora in rete, tutto attaccato, aurorainrete.org. E niente, nel numero adesso che esce per il numero di novembre ci sarà un articolo sulla carovana dei poeti di presentazione, e nel prossimo numero, quello che uscirà a dicembre, per il fine anno, riprodurremo anche alcuni testi, col permesso naturalmente degli autori, dei poeti, per far vedere veramente quanto vale questa antologia, quanto vale il lavoro e l'ispirazione di questi giovani poeti, che veramente ne vale la pena. Per chi ci sente dall'Italia, invitiamo a procurarsi il libro, senz'altro, di Edizioni Fara, di Rimini, perché veramente, ripeto, ne vale la pena. Bene, su questa onda di entusiasmo, e quindi ringraziamo ancora Alessandro Lamberti, Luca Ariano, Luca Paci, e ci terrei per concludere la carovana a leggere tutti i poeti che hanno partecipato, chi alla tela sonora e chi invece all'antologia. Quindi, in ordine, Luca Ariano, Marco Bini, Dome Bulfaro, Natalia Castaldi, Enrico Cerchiglini, Carmine De Falco, Salvatore Della Capa, Chiara De Luca, Fabio Donalisio, Matteo Fantuzzi, Fabio Franzin, Marco Giovenale, Lorenzo Mari, Faraon Meteoses, Simone Molinaroli, Fabio Recchini, Luca Paci, Massimo Palme, Rossella Renzi, Eleonora Pinzuti, Alessandro Seri, Tito Truglia e Dalle Zaccaria. Un grazie a tutti voi per la fiducia e per l'impegno e per la grande passione che ci mettete. Lasciamo i nostri amici della Tela Sonora, al prossimo venerdì. E con Max Ponte, ricordiamoci l'asse da stiro Price, di nuovo musica, sei pronta dalla regia? Yes. Un saluto a tutti e a venerdì prossimo, grazie. Под землей наши герои спят, песню над ними ветер поет, и звезды с небес глядят. То не залп с полей долетел, это гром вдали прогремел, и опять кругом все спокойно, все молчит в тишине ночной. Eyes.